raindrops on roses and whiskers and kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Vissi d'arte, vissi, rubrica di donne, vita e arte. La puntata di oggi si intitola Mi diverto enormemente lavorando, Niki de Senfal. Cari amiche e amici, siamo di nuovo con Vissi d'arte, Vissi. La donna d'arte di cui ci occuperemo questa sera è Niki de Senfal. L'artista nasce nel 1930 a Neuilly-sur-Seine, nella più elegante banlieue parigina, dal banchiere francese André-Marie Fall de Senfal e dall'attrice americana Jean-Jacqueline Harper. Trasferitasi con la famiglia a New York nel 1937, vive un'infanzia dorata, privilegiata, adonta persino della Seconda Guerra Mondiale. Studia a scuole pubbliche e private cattoliche e fin da subito manifesta un carattere ribelle che i suoi interessi artistici contribuiscono a fomentare. Alla fine degli anni 40 la vita da debuttante newyorkese non fa per lei, i rapporti con i genitori si fanno sempre più conflittuali, non trova spazio per quella che percepisce come un'ardente inquietudine, una ricerca di senso. Abbandona la casa familiare e, forte dei suoi lineamenti delicati, della sua bellezza sofisticata e della sua educazione cosmopolita, diventa modella per le copertine di riviste prestigiose come Life, Harper's Bazaar, Vogue e pensa di dedicarsi al teatro. Nel frattempo si sposa con lo scrittore Harry Matthews, da cui ha quasi subito due figli, Laura, nata nel 1951, e Philip, nato nel 1954. Nel frattempo però i coniugi Matthews si sono trasferiti a Parigi nel 1952, lui per studiare musica, lei per continuare col teatro, ma quell'inquietudine che l'accompagna diventa un peso sempre più difficile da sopportare. Nel giro di poco tempo Niki ha un crollo nervoso e deve essere ricoverata in clinica a Nizza. È qui che scopre la pittura, dapprima in funzione terapeutica, poi, quando sta meglio, in funzione di una realizzazione intellettuale, artistica e professionale. Si muove dapprima nell'ambito dell'informale e la sua prima mostra si tiene in Svizzera, a St. Gallen, dove espone nel 1956. Qui conosce Jean Tinguely e Eva Epli, marito e moglie, ma soprattutto artisti scultori. L'innamoramento tra Niki e Jean è quasi immediato. Nel 1960 si separa dal marito, cui affida i due figli, perché vuole dedicarsi completamente all'arte e al suo nuovo legame. Divide con Jean Tinguely uno studio a Parigi ed entrambi aderiscono al movimento del Nouveau Realisme, una corrente artistica da poco teorizzata dal critico francese Pierre Restany, che ne individua l'espressione nell'utilizzo in arte di oggetti d'uso comune e quotidiano, cui la decisione dell'artista dona nuovo statuto estetico e comunicativo. C'è naturalmente un richiamo al grande artista Marcel Duchamp e in generale al dadaismo e al surrealismo, tanto più che il movimento può rientrare in una più ampia definizione di New Dada. Tra gli artisti coinvolti nel Nouveau Realisme c'è l'amico più intimo di Jean, Yves Klein, e poi ci sono Daniel Sperry, i coniugi Christo, l'italiano Mimmo Rotella e altri ancora. Niki de Senfal si segnala nel 1961 con i suoi Tir à volonté, fuoco a volontà. Si tratta di una serie di performance in cui l'artista, o a volte altri artisti da lei scelti, suoi amici come Jasper Johns o Robert Rauschenberg, spara contro dei quadri, spesso bassorilievi svariati materiali che nascondono palloncini gonfi di vernice. Quando colpiti, questi rilasciano colate colorate che strisciano sulla superficie gessosa come getti di sangue, con effetti quanto mai perturbanti. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born. born with it. My friend Despite, he gets shakes in the night, and they say that there's no way that they could have caught it. In time takes its toll on him. It is traditional, it is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family. This family that carries me to such great lengths to open my legs up to anyone who'll have me. It runs in the family. I come by it honestly. To what you want, cause who knows, it might fill me up. Depressed, she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests, and they guess it has something to do with our grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, rickets, and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, strips in the city, and shares all her best treats with me. Well, I'm well, I mean, I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this, what in hell's name is sickness? But business is business, and business runs in the family. We tend to bruise easily, bad in the blood. I'm telling you, cause I just want you to know me. Know me and my family, we're wonderful folks. But don't get too close to me, cause you might not be a mercy. Now look what I've done, but don't blame me, because I can't help where I come from. And running is something that we've always done well, and mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility. Run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself, I can run from my life, I can run into debt, I can run from it all. I can run till I'm gone, I can run for the office and run from the cause. I can run using every last ounce of energy. Don't tell my family, they'd never forgive me. They say that I'm crazy, but they wouldn't say anything if it would shut me up. Shut me up. Shut me up. Me up, me up, me up, me up, me up, me up, me up. Shut me up, me up, me up, me up, me up. La violenza, la rabbia, l'esasperazione che le donne non possono esprimere. Con le sue performance intitolate Fuoco a volontà, Niki de Saint-Phal aggredisce il background borghese e perbenista delle sue origini. E intervistata successivamente a proposito delle sue performance, dichiarerà: «Nel 1961 ho sparato su dei quadri perché farlo mi permetteva di esprimere l'aggressività che sentivo. Un assassinio, ma senza vittime. Ho sparato perché amavo vedere il quadro sanguinare e morire. Ho sparato per toccare un istante magico, l'istante dell'estasi. È stato un momento di verità. Tremavo di passione mentre colpivo i miei quadri». Guardare da un punto di vista femminista la serie dei tiri della Saint-Phal significa percepirne la prossimità cronologica, quasi una premonizione, all'epoca della pubblicazione della Mistica della femminilità di Betty Friedan del 1963. Appassionata denuncia della gabbia ideologica borghese e patriarcale che imprigionava la forza viva delle donne, senza contare lo scandalo suscitato solo pochi anni prima da Simone de Beauvoir con Il secondo sesso, pubblicato nel 1949 e guardato ancora all'epoca con imbarazzo e vergogna dalle donne, con riprovazione e arrogante disgusto dagli uomini. D'altra parte, i suoi tiri esprimono anche la libertà creatrice della distruzione. Contro tutte le convenzioni dell'arte e della società, contro ogni tentativo di controllo e repressione, la violenza agita nell'arte assume il sapore di una ribellione. Nel 1961, intervistata a caldo dopo una delle sue performance, aveva d'altra parte dichiarato: «Il fumo dava l'impressione di una guerra. Il dipinto era la vittima. Chi era il dipinto? Papà? Tutti gli uomini? Gli uomini bassi? Gli uomini alti? Gli uomini grassi? Mio fratello John? O il dipinto ero io? Quel bagno di sangue rosso, giallo e blu che esplodeva sul rilievo bianco candido trasformava il dipinto in un tabernacolo di morte e resurrezione. Sparavo a me stessa, alla società con le sue ingiustizie. Sparavo alla mia stessa violenza e alla violenza dei tempi. Sparando alla mia violenza, non ero più costretta a portare sulle mie spalle quel fardello». L'artista accusava il padre di aver abusato di lei, ed esorcizzare tale orrore era un altro degli intenti di Fuoco a volontà. Nello stesso anno, 1961, Niki partecipa con Jean Tinguely, Jasper Johns e Robert Rauschenberg a Variation to the John Cage, concerto performance tenuto all'ambasciata americana di Parigi. Ma le lande estreme dell'arte concettuale la interessano solo in parte. D'altra parte, grazie alla sua bellezza delicata e alla capacità di comunicare e coinvolgere, diventa figura di punta della comunicazione mediale dell'avanguardia. Se le implicazioni sovversive e violente della sua arte, anche quella successiva, non sfuggono ai critici, il grande pubblico rimane incantato da questa figura elegante che sa bucare lo schermo televisivo nei dibattiti culturali e portare l'avanguardia nelle case dei cittadini. Si tratta naturalmente di un'arma a doppio taglio. Come all'epoca di Camille Claudel, 50 anni prima, negli anni 60 la scultura era ancora considerata un'arte non alla portata delle donne, troppo impegnativa fisicamente e concettualmente per l'animo femminile. Tanto più poteva ottenere credito un artista di grande bellezza fisica, all'epoca di Camille come all'epoca di Miki. Ai nostri giorni, per fortuna, artiste come lei, come Barbara Epsworth, come Louise Nevelson o Louise Bourgeois hanno finalmente messo a tacere tali assurdità critiche. Ma Niki de Saint-Phalle si è trovata sulla linea del fuoco. Dopo un trasferimento nel 1963 a Soisy-sur-École, nei dintorni di Parigi, l'artista ritorna alla riflessione sul femminile, avvicinandosi sempre di più ai nascenti movimenti femministi. Poco alla volta, lavorando alla rappresentazione del corpo femminile e all'esplorazione degli archetipi e delle percezioni più elementari e sofisticate ad esso legati, comincia la produzione delle sue nanà. Myself away. I've been wandering the streets for days and days and days, going from a road to road, bed to bed, lover to lover, and black to gray. But I believe. I'm heading down, and so I. sono le nanà? Il nome è d'origine spagnola e sta per ragazzine. Sono imponenti, spesso gigantesche figure femminili, realizzate in vari materiali, per lo più poliestere, sostenute all'interno in molti casi da grandi armature di metallo. Come gigantesche veneri preistoriche, l'accento è messo sui caratteri sessuali primari e secondari, con grandi seni, fianchi prosperosi, cosce natiche, rotonde e irrefrenabili. Coloratissime, costellate di decorazioni floreali, gioiose e vitalissime, accennano passi di danza, salti, capriole, installate su piedistalli spesso al centro di fontane musicali che accentuano con il gioco dei zampilli e i suoni l'impressione di felicità giocosa. Dopo l'aggressività furibonda di fuoco a volontà, le nanà esprimono un altro lato della femminilità, in chiave ironica e ludica al tempo stesso. Anche se non pochi critici d'arte uomini le troveranno stranamente inquietanti, come ben espresso dal critico Pierre Descargues, che saprà coglierne, al di là del gioco, l'intento anarchico e dissacrante. Le nanà fanno festa, ma a nostre spese. Saltano a pie pari sulle nostre pance, sull'esercito, sulla morale, saltano sulla nostra filosofia, fanno una capriola sulla patria. E poi aggiunge, Niki de Saint-Phal sa servirsi delle sue armi femminili. Ma le nanà vanno al di là del loro essere sculture. Il coreografo Roland Petit le utilizza come comprimarie dei ballerini in un suo balletto del 1966 intitolato Éloge de la folie, Elogio della follia, di grande successo. Sempre nel 1966 Niki de Saint-Phal realizza un'installazione temporanea per il Moderna Museet di Stoccolma, Hon, lei in svedese. È una nanà incinta, sdraiata, le gambe aperte, di dimensioni gigantesche, quasi 24 metri di lunghezza e 10 di altezza. I visitatori fanno la fila per entrare dalla sua vagina e ritrovarsi in un ambiente caldo e scuro che ospita un bar, un'alcova, un planetarium, un cinema, un acquario e una piccola mostra di opere d'arte. Concepita come evento temporaneo, secondo l'idea di arte effimera caratteristica della poetica del Nouveau Realisme, dell'installazione rimangono solamente le fotografie e i progetti della scultrice. Si tratta di un gioioso, esuberante omaggio agli archetipi antichi e moderni della donna nutrice, demistificando al tempo stesso il concetto di corpo femminile come un oscuro antro depositario di inafferrabili misteri. D'altra parte, naturalmente, l'opera verrà piuttosto criticata e giudicata alquanto disturbante. Niki si riappropria del corpo femminile in quanto oggetto sessuale e obbliga gli uomini, nel rientrare nel canale del parto, ad ammettere e affrontare la propria segreta repulsione verso l'anatomia femminile. L'artista pop Klaes Holderburg conierà per On un distico in rima che ben esprime questa irritazione generalizzata verso il corpo di On. De mon atelier et jusqu'au moderne musée, je regarde en plein le con d'On, che potremmo tradurre come dal mio atelier e fino al moderne musée vedo solo la fica di On. I'm not afraid to die. Nel 1971 il lungo sodalizio artistico e sentimentale con Jean Tinguely viene ufficializzato con il matrimonio. I due artisti lavorano insieme da tempo e sempre più spesso collaboreranno alle rispettive opere. È Tinguely, ad esempio, che progetta alcuni dettagli tecnici e strutturali di Hon, ed è Niki a dare a Jean numerosi suggerimenti per la realizzazione e gli effetti delle sue celebri macchine autodistruttive. Ma negli anni 70 questa collaborazione diventa sempre più importante. Hanno in comune un uguale approccio alla vita e all'arte. Scriverà Niki in una conversazione immaginaria tenuta con il marito dopo il 1991, l'anno della morte di Jean. Io e te siamo tra quegli artisti privilegiati per i quali la creazione è un gioco. Molti soffrono quando lavorano. E io sono spesso stata rimproverata di non essere una vera artista perché mi diverto enormemente lavorando e perché diverto gli altri con il mio lavoro. Noi vogliamo comunicare con la gente, la nostra arte è fatta per gli altri. La dimensione pubblica, comunitaria del lavoro di Niki, de Saint-Fal e del marito si esprime in opere d'arte create per spazi pubblici, piazze, giardini, luoghi di incontro, che vengono chiamati a ospitare statue, fontane e gioco, spesso con l'aggiunta di meccanismi semoventi e di musica, per un'idea di arte spettacolare, plurisensoriale. È l'idea che è alla base della fontana Stravinsky, ad esempio, realizzata nel 1983 in piazza Igor Stravinsky a Parigi, di fianco al Centre Pompidou. Si tratta di una vasca di grandi dimensioni, 580 metri quadri, che ospita 16 statue in resina e metallo con meccanismi d'automazione, 7 di Tinguely, 6 di Niki de Saint-Fal e 2 realizzate in collaborazione. Ispirata al mondo magico e visionario del compositore russo, l'opera ha una sinestesia, cioè una compresenza di effetti visivi, sonori, cinetici. Poco tempo dopo, nel 1987, il presidente François Mitterrand chiederà ai due artisti di realizzare la fontana di Château-Chinon, suo antico municipio. Ma la realizzazione di opere monumentali aveva radici più antiche. Nel 1972 Niki aveva realizzato il gigantesco Golem, scultura a scivolo creata per il Parco Rabinovich, giardino dedicato ai bambini a Gerusalemme. Occorre dire che l'opera, nella sua truce coloratissima bonarietà, non è stata sempre apprezzata e si è giunti addirittura a ipotizzarne la distruzione perché giudicata spaventosa per i bambini. Nel 1973 fu Jean Tinguely a progettare e a realizzare, con l'aiuto di Niki, di Eva Epli, di Daniel Sperry, César e altri artisti, il Ciclope, una gigantesca scultura alta 22 metri raffigurante una testa di ciclope che Niki provvederà a coprire successivamente di centinaia di migliaia di frammenti di specchio. Eclatante, luminosissima e sorprendente, la scultura sarà dichiarata monumento nazionale da Mitterrand, grande stimatore del lavoro dei due artisti. When I got to the party, they gave me a 40, and I must have been thirsty, cause I drank it so quickly. When I got to the bedroom, there was somebody waiting, and it isn't my fault that the barbarian raped me. When I went to get tested, I brought along my best friend Melissa Mahoney, who had once been molested, and she knew how to get there, she knew all the nurses, they were all really friendly, but the test came up positive, so now we're not talking, except we have tickets to see Blue in October, and I think we're still going. La nostra puntata di Vissi d'arte Vissi è dedicata questa sera alla scultrice francese Miki de Saint-Phalle. Tra le opere più importanti, per dimensioni, impegno lavorativo e per l'impatto sul pubblico e sull'ambiente, è lo splendido Giardino dei Tarocchi, realizzato tra 1979 e 1998, ben 19 anni di lavoro, a Capalbio, in Italia, poco lontano dall'Argentario e da Orbetello. Prima della sua progettazione e realizzazione, Miki aveva visitato il Parc Güell di Gaudí a Barcellona, rimanendo affascinata dalle forme, dai colori, dalla frenesia vitalistica e magica delle forme pensate dall'architetto catalano. Ne tornò con il desiderio di realizzare, scrisse, un giardino della gioia, un piccolo angolo di paradiso. Vi era in più il desiderio di sfidarsi, lei donna, su una scala monumentale riservata d'abitudine alle opere degli uomini. In un suo scritto relativo al Giardino dei Tarocchi dichiara: «Non è un caso che io abbia costruito questo giardino, la mia mano è guidata. Percorro una via che è stata tracciata per me e rispondo al mio bisogno insistente di mostrare che una donna può lavorare ad un'opera così monumentale». Affascinati dal suo progetto, i principi Caracciolo, suoi amici, le donano il terreno. L'artista ha finanziato interamente la preparazione del medesimo, la costruzione delle opere, e nel 1997 ha creato una fondazione al fine di proteggere e tutelare il suo sogno fatto realtà, vero e proprio trionfo di un immaginario gioioso, sensuale e coloratissimo. Ancora una volta vi è stata una strettissima collaborazione con Jean Tinguely, che oltre a curare gli aspetti più tecnici e logistici dell'impresa ha donato anche alcune sculture da integrare nell'opera, e con un'imponente equip di artisti e artigiani specializzati per quel che riguarda l'esecuzione materiale del progetto, col risultato di creare una comunità vicina nello spirito, secondo le stesse testimonianze dei protagonisti, ai grandi cantieri delle cattedrali medioevali. Si tratta di un percorso in un parco costellato di gigantesche statue, alcune dilatate nelle dimensioni fino a divenire luoghi e case praticabili e abitabili, come la gigantesca imperatrice, detta anche la Sfinge, per la sua imponenza da nome tutelare, un'immensa figura femminile accovacciata al suolo che accoglie nel suo interno un intero appartamento, comprensivo di cucina e servizi, nel quale l'artista amava vivere per periodi più o meno lunghi. Di qualunque dimensione siano, le statue e le installazioni raffigurano i 22 arcani maggiori dei tarocchi, più un certo numero di altre figure minori, e l'insieme ha una forte connotazione esoterica e sapienziale, ispirandosi anche al Giardino dei Mostri di Bomarzo, sia nella simbologia che nell'idea di ricreare un mondo fantastico in cui gioco, stupore e monumentalità si fondono con un impatto unico. Scrive l'artista: «Ho pensato a un cammino filosofico che indica le prove attraverso le quali l'uomo deve passare per comprendere le sue proprie motivazioni e la sua relazione con l'universo. Non è un discorso troppo teorico, ma anzi profondamente personale, di elaborazione del suo vissuto. In un'intervista Miki ha parlato dei suoi rapporti con i figli, affidati al padre per seguire la sua vocazione artistica, e ha rivelato che la figlia Laura le ha testimoniato la sua sensazione netta che per Miki vivere alcuni mesi all'interno dell'imperatrice Sfinge mi abbia resa più affettuosa e aperta. L'insieme, insediato in un tessuto verde di macchia mediterranea, è un dialogo costante tra forme e colori, tra il fruscio immateriale delle acque e le stimolazioni sensuali date dalla diversità dei materiali, ceramica, metalli, specchi, legni, colori, ricreando così un vero ambiente artistico, completo e autoreferente. Si celebrano i rapporti arte-natura, modernità-tradizione, forme-colore, materia-spirito, utilizzando queste coppie di opposti come motore dinamico della creazione. Su incarico dell'artista, l'architetto Mario Botta ha creato un ingresso costituito da un muro gigantesco che sbarra letteralmente il cammino e lo sguardo, perché il visitatore sia consapevole dell'attraversare una soglia che non è solo fisica, ma esperienziale. Dalla porta del giardino si entra in una dimensione altra, magica. Oh, Ma il giardino dei tarocchi non è solo il sogno di Nikki fatto realtà. La sua realizzazione è stata anche una lotta contro il tempo, la malattia, la morte. Nel 1991 Jean Tinguely è morto, mentre Nikki continuava a lavorare al giardino lottando contro il tumore causatole dall'aver inconsapevolmente utilizzato per decenni un materiale altamente tossico in fase di lavorazione, come il poliestere. Tuttavia, la drammaticità degli eventi è stata riassorbita nel grande simbolismo cosmico del giardino, in cui la morte, la paura e l'incognito sono in equilibrio con la forza gioiosa e irrefrenabile della vita. Come ha scritto Pierre Stani, il giardino è un sogno più forte della morte. Nikki de Saint-Phalle muore a San Diego, in California, nel 2002. Dal settembre 2014 ai primi giorni di febbraio di quest'anno, la Francia ne ha celebrato la vita e l'opera con una grande esposizione al Grand Palais, che segna un nuovo punto di partenza per gli studi critici dedicati ad una delle sue maggiori artiste. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Abbiamo ascoltato brani di Kate Bush, Florence and the Machine, Amanda Palmer e Mozart. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona serata. Raindrops on roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel. So bad.